tecniche. Attenzione, canale 23, cambia! Oh oh! E come mai non avete staccato il PL? Che sta piovendo. Io non ne stacco mai. Io non ne ho mai staccato, non mi dà niente, mai. Manco io ru, manco io ru. Almeno che ci sia proprio fulmine e cose, allora stacco, stacco la presa, dai, dove ci sono tutte le prese attaccate. Ma proprio ci deve essere tu, i lampi, ma l'altro giorno non l'ho staccato, dico la verità. Pensavo che fosse Luca del Monte, e invece di tu. Tutti rubate simili, ma vedi, va la vozzina. Così è, così è. Cava gava, cava gava. E allora, questo come va Luca l'apparecchio? Bene, bene, molto bene. Questo è 980. Cosa? Che radio è? Magnum 980. Ah, quello c'ha lo smitter grande. Rotomo ce l'ha. Oh. Sì, tipo il S9, Sì, strutturalmente è come l'S9. C'ha qualche cosa in più, ma quasi uguale, dai. È il modello nuovo dell'S9, no? L'S9 aveva quel difetto del frequenzimetro. Questo qua l'avevano praticamente eliminato quel difetto con questo apparecchio qua. Sì, hanno avuto problemi con le tensioni, così che tutti quelli che hanno venduto hanno avuto quel problema lì, purtroppo. Sicuramente c'è qualche problema lì, perché quasi tutti quelli che ho sentito hanno problemi. Uno che camminava da solo, frequenzimetro, l'altro che gli mancava gli ultimi numeri. Oh, yeah. Tu ce l'hai uno, vero? Sì, a sei hanno suonato già. Yeah. Ah, vero. Cava gara. Ora, ora, attenzione, 23 gambi, c'è qualcuno? Nessuno sul canale 23, cambio. Attenzione al canale 23, cambio. Ehi, a chi è? Ehi, ehi, ciao Monserrato, buonasera, ben ascoltato. Pensavo non mi sentivi perché sto andando con pochissimi watt. Ok, mi ascolti, sì? Ehi, ehi, va bene, va bene. Com'è il tempo a Patara? Buono? Ehi, ehi, gappa, gappa, va bene, va bene. No, qua a Sassari oggi è proprio tutto il santo giorno, tutto il santo giorno, ha dato una bella passata stamattina, poi si è calmata ed è sempre così, piano piano però sta sempre piovendo, ho capito, sempre sempre piovendo, vabbè, sarà il tempo suo, cosa vuoi che ti dica? Sì, segnale anche per te, 5-7, senza nessun problema, sto andando con la radio, un altro tipo di radio, infatti sono una quindicina, non di più, ok, comunque se mi hai dato 7 vuol dire che mi ascolti bene, a te ancora Monserrato, K. Sì, Santiago 7, Radio 5, arrivi su questa radio, Monserrato, Santiago 7, Radio 5, senza nessun problema, no, io se faccio così io devo sentire tutti, il fatto che non senta uno e non senta l'altro, non mi sposto, non ce n'è problema, ce ne sono altri canali, se no poi diventa un casino, capito, non mi piace modulare così, a me, ecco perché mi sono spostato, altrimenti non c'è nessun problema, figurati. Molto bene, molto bene. Ti ripeto, qua acqua, acqua tutto il santo giorno. Adesso domani sembra che abbia dato un po' di tregua, vediamo un po'. Beh, sicuramente sì, sicuramente sì. Ci avviciniamo all'inverno proprio. Però infatti la temperatura è scesa tantissimo. Stamattina io quando sono uscito verso le 7, meno un quarto, c'erano 12 gradi, c'era molto molto freddo. Freddo. E anche la sera ti dirò che ci vuole il giubbottino pesante, capo. Sì. A patata già ci ho lavorato io. Ho due colleghi, ex colleghi, perché io non lavoro più, sono in pensione, però ho due ex colleghi che mi sono divertito tantissimo, Claudio Beccio e Francesco Ciscovi. Ah, ho capito. Mi sono divertito tanto con Francesco, con Ciscovi mi sono divertito tantissimo, un bestione di uomo, caspita, però è talmente bravo, talmente buono, ma mi faceva veramente divertire tantissimo. Eravamo assieme in turno e abbiamo lavorato anche su a Tempio un periodo lì a Pischinaccia, capito? E lui viaggiava tutti i santi giorni da Pattada, poi siamo passati in depurazione e quindi lui adesso in quella zona, Pattada, Budusò, tutte quelle zone, Bonnannaro, capito, tutte quelle zone lì c'è. Vabbè, Torralba mi sembra che ci abbia anche, ed è una bravissima persona, e so che li hanno messi insieme a lui e a Claudio, perché Claudio prima era a Tiesi, adesso invece è insieme a lui. Sì, c'è Bonorva, quella zona lì, c'è quella zona lì, Mores, capito? Mores, forse c'è anche qualche sollevamento di Tiesi, adesso non lo so, perché prima era fisso al depuratore di Tiesi, quando c'ero io, poi so che l'hanno messo assieme a Francesco, sono contentissimo perché sono veramente due persone veramente in gamba, ci ho lavorato tanti anni, mai abbiamo avuto un niente, proprio un niente, manco uno sguardo di nulla. Si lavorava tranquillamente in armonia e con molta serietà, ma soprattutto con molto divertimento, veramente, due persone in gamba. Se li vedi salutami lì, capito? Se li vedi in coppia, magari fermi, tanto sai che c'hanno quel furgone bianco a ciona, se li vedi salutameli, dalle tanti saluti da Claudio Marti, capito? Claudio Marti, non è da Claudio Sparviero, Claudio Marti, ok? Ya ti viene bene a salutarlo, dai, se lo vedi salutalo che le fa piacere, da tanto che non lo vedo. Ci siamo visti un giorno a Sassari che stava facendo una visita, perché anche lui non è stato bene, e quindi siamo incrociati, però se me lo saluti mi fa cosa gradita. Va bene, per il resto tutto a posto? Vabbè. Ne abbiamo preso di acqua un po' tutti al lavoro, dai. Io facevo lo stesso lavoro che fa Claudio e Francesco, quindi ne abbiamo preso di acqua. Soprattutto quando pioveva era il nostro pericolo, quindi ci dovevamo organizzare e cercare di fare bene le cose, perché altrimenti era un casino, capito? Per mettere in sicurezza gli altri, perché c'erano sempre tantissimi problemi, soprattutto in quella zona, capito? Vabbè, comunque, è andata anche questa, adesso largo ai giovani. Aia. Com'è il tuo nome, Monserrat? Il tuo nome di battesimo, Monserrato ti chiami? Kappa, eia, pensavo che era il nominativo. Ascolta, tu sei già in pensione o stai ancora lavorando? Quanti anni hai? Quindi sei in pensione come lavoratore di quel lavoro usurante, quello lì? Sei andato in pensione prima? Ah, ecco, ho capito. Va bene. Come te? Vabbè, già tocca anche a te, Monserrat, non ti preoccupare. Io manco me ne sono accorto, pensavo manco di arrivarci, invece sono già un anno e mezzo a casa. Faccio altro perché la mattinata riesco a impegnarla, poi il pomeriggio me ne sto a casa, tranquillo, al fresco. Al fresco quando c'è caldo e al caldo quando c'è fresco. Avvicinati un po' al microfono che ti ho sentito basso di radio. Ah beh, adesso è una pacchia a lavorare, prima era un casino. Si conferma, Gaiette. È certo che sì, prima era un casino, adesso già va bene. Ehi, quante volte abbiamo fatto, capita? Aspetta un attimo, non sarà, un secondo solo, che devo rispondere un attimo al telefono, se no è un casino, non ci capisco poi più niente. Quindi quindi tu sei praticamente la cava che c'è lì a Patara o quella di Budogio? Sì. Quindi ti hai già ce ne hai i contributi, già ne hai i contributi. E beh, non hai fatto quella domanda come lavoro gerante per andare via prima? Ah, capito. Ciao Lu. Non lo senti a Patara tu, no? Passo a passo. Vediamo un po'. Monserrat, ti mando avanti Luca, vediamo se lo senti a Patara. Vai Lu. Monserrat, buonasera. Ma non credo che mi sentano qua. Ha detto che ti ascolta, basso, ma già ti ascolta, non c'è problema. Va bene allora. Certo che sì, per la zona in cui sei, già va bene. E Luca trasmette nella parte bassa, diciamo, dai, molto aperta per il mare, ma un po' coperta per dove sei tu, Monserrat, capito? Guarda se mi sente adesso, vedi un po', 1, 2, 3. Hai sentito, Monserrat? Ma tu non lo senti allora, lui ti sente meglio. Basso lo sento. Lui adesso ti sente meglio, però se tu non gli rispondi, ti ha detto riprendi. Sta parlando adesso o no? No, non sta parlando, parla. Monserrat, mi senti? Incomprensibile tra ufficiali. Arrivi basso, Monserrat, capito? Tu a lui lo senti perché lui è Monello, c'ha il giornale sotto i piedi, capito? E quindi niente, tu lo senti, ma se non dai gas lui non ti sente, ti ascolta basso. Gas al massimo messo. Lui ha messo la bombola al massimo, mettila anche tu, Monserrat. Prova, vediamo se ti senti adesso. Non intende? Non ti accoppia, no, Monserrat. Non ti accoppia. Neanche lo amplificatore, là. Non ti sentono lui. No, io sono con 15 watt. Adesso che c'è sta qui. Arrivo a Santiago 7, lui a me arriva a Santiago 7 lo stesso. Stanno prendendo perché nel però vabbè, da qua su. Patata, tiri, Budogio, tutta chissà roba, mi ramagni come te sasse. Io sono già, non so la mia abitazione, quindi sono proprio in zona molto molto alta per voi. Sento tiri Santiago 9, 9, 10 a volte. E quindi capito, quando modulava cosa, come si chiama? Adesso non c'è più la San Nicola. Va bene. Nino, ma che fine ha fatto Nino? Molto è. Ma Nino. Nino si chiama, Nino 1, Nino. Quello lì. Ah, ci picchia, non sapevo che non c'era più. Porca miseria, è venuto anche qua a casa una volta a trovarmi. Cioè quello era da medicale che non mi ricordo se gli avevo anche dato una radio, non mi ricordo. È una bravissima persona. Mi dispiace che aspetta. No, beh, io ho conosciuto tramite altre persone, so il lavoro che faceva, appunto si occupava di montaggio, smontaggio di palchi per concerti, queste cose così, era una bravissima persona, veramente, mi dispiace, non ho saputo niente perché poi da ieri non ho più parlato nessuno, non ho avuto più nessun contatto, quindi non sapevo assolutamente niente. Vabbè. Pazienza, si nasce e si muore. Avanti Luca. Luca. Luca non ti sente, allora si è allontanato. In che zona abiti di Patara, Monserrat? Zona stazione o più su? In Alvin Piazza? Ah ecco, se abiti vicino a Claudio, sì, allora già lo so dove abiti. Allora sì, perché ci sono andato da Claudio, capito? Infatti avevamo preso le pizze proprio lì. Scusa. Sì. Ma già è zona buona quella, No, già lo so perché se mi hai detto che abiti a 150 metri da Claudio, io ci sono stato da lui e la zona è buona, capito? È una zona abbastanza alta. Ehi, anda bene. L'importante è che senti e non c'è problema. Infatti qua arrivi molto molto bene, adesso con questa radio che è un digitale, stai arrivando 7, si accende anche l'altra righina ed è abbastanza precisa, quindi sei tra il 7 e l'8. Ho provato con il 440 sull'analogico, sei 8 pieno, quindi è perfetto. Il segnale è 8, caspita, la Patara è favoloso, la radio è buona, quindi non problem. C'è nessuno? Sì, sono io, sto modulando Monserrat. Beh certo, quella zona lì, ti ripeto, se abiti a 150 metri da casa di Claudio, io sono stato lì a Pattala perché ci ho lavorato, quindi siamo andati lì a casa sua e la zona è molto alta. Ciao Giulio, buonasera, ben ascoltato, c'è Monserrato a Pattala, non so se lo senti. No, non lo sento assolutamente. Ciao Claudio, no, non lo sento. Lo vorrei salutare ma non posso perché tanto non arrivo lì con questa potenza specialmente. Perché arrivo qua e non sento Monserrato. Stavo ascoltando a 10 e non sento quel di Cola e allora sempre il discorso è sempre quello. Io infatti sono andato via da 10 perché a me se si modula si modulava con gente che non sento, che sento, se non devo sentire parla solo Gianni con lui, io mi sono spostato e io sono con una quindicina di watt, non di più, però vabbè mi aiuta la posizione. Santiago 8 qua a Monserrato. Monserrato ti saluta Giulio Dollaro, ma non so se tu lo senti, lui non ti sente, tu l'hai sentito? Va bene, no, non ti sente giù. Ah, ci picchia, non so cosa dirti. Io ti ripeto, sono andato via da 10 proprio perché non sentivo Nicola. Se questo uomo si decide a mettere un'antenna come Cristiani e parla solo con chi è vicino, io cosa vuoi ti faccio? Non so cosa dirti Giulio. Ma io non so se sto uscendo bene adesso, perché adesso ho tirato su un po' la potenza. E cosa vuoi che ti dica? Siamo mesi dicendogli di attrezzarsi, ma continua con questo portatilino e non riesce a farsi sentire un po' da tutti. Sì, mi arriva basso, potrei anche capire quello che dice, ma ci devo mettere le orecchie sulla radio, ma che me lo fa fare? Oh, oui. Ma va bene così, dai. Ok, continua qua, dai, parla con Monserrato, poi quando ci saranno persone che riesco a sentire rientro, dai, prendi pure, a dopo. Sono qua Giulio, sono qua, e vabbè, dove ti faccio, non so già dirle, io se entro in radio devo, come discorso che abbiamo sempre fatto, devo parlare con chi sento, perché se non sento c'ho QRM a 3-4 e lui è mezzo al QRM, cosa devo fare? Gianni dice io lo sento bene, Gianni lo sente bene, si è attaccato a Eddo, poi tutto lo sente bene, ma qua non ce la fa salire il segnale, a volte sì, a volte no, a volte quando è in macchina lo sento bene, però da casa sua qua non arriva, arriva solo se si mette nel terrazzo, però sta piovendo e quindi non so cosa fare. Veda lui. Avanti Monserrato, ti saluta comunque Giulio Dollaro, ripeto, ma non ti ascolta, rientrerà dopo quando c'è questione locale. Come in? No, non c'è l'FM questa radio, è una radio americana, non c'è l'FM, devo commutare con l'altra e il tempo è brutto, non mi fido. Questa te l'ho detto, una radio americana che c'ha di tutto e di più, però non ha l'FM. Ha la M e l'SSB. No, ma qua non hai problemi, sei 8 abbondante, quindi non ti preoccupare, è Giulio che non ti sente, capito? Io ho tutto spento, c'ho solo questa accesa perché il tempo è brutto e questa è una radio. Lo usi anche per un po', diciamo, da battaglia, chiamiamola così, dai, perché se mi si brucia questa non me ne frega niente, ma se mi si brucia gli HF mi dispiace. E quindi capito, questa è una bellissima radio, però è sempre per me sempre secondaria, le primarie sono quelle altre, anche se anche questa è un HF, per carità, però è una radio che ho messo tanto per fare due chiacchiere. Va bene, ascoltami. Quindi, invece a Francesco a Ciscopi ho visto lei. Allora, senza amplificatore mi arrivi segnale 5, con l'amplificatore mi arrivi 8. La radio è sempre 5, il segnale 5 senza amplificatore, con l'amplificatore mi arrivi 5 di radio e 8 di segnale. Sì. Penso che ce l'abbiano lì in zona la macchina loro. Perché prima la telefono, adesso non mi ricordo dove, forse l'impianto di Tiesi. Adesso non lo so se ce l'hanno a Pattada, l'impianto di Pattada. È su Fiorino, dai, con i fiorini bianchi con la scritta Ciona. Sì, sì, sì. Tu quando vuoi caricare? Sì, ma no, ma Claudio, quando prima era Tiesi, che c'ero anche io lì, responsabile a Tiesi, lui la macchina la teneva lì e veniva da Pattada a Tiesi con la macchina sua. Poi ho fatto un po' di bordello, diciamo, per aiutarlo, perché il consumo era troppo elevato. E il responsabile del distretto gli ha concesso appunto di portare la macchina a Pattada, però non so se ce l'aveva a casa o se la lascia all'impianto di Pattada. Ah, la vedi lì vicino a casa sua parcheggiata, e allora ce l'ha a casa. Meglio così, dai, meglio così, meglio così. Sì, ti ripeto, è una persona veramente, veramente a modo, sia lui che Francesco, tutti e due. Io li ho avuti in squadra con me, abbiamo lavorato assieme a Tiesi, con Ciscui no, Ciscui si occupava dei sollevamenti, quindi aveva tutto Limores, Torralba, tutto Bonnannaro, capito, Pattada, nuovo, vecchio, insomma, un po' di sollevamenti ci aveva, Berchida aveva. Berchida. No, Berchida, sì, no, aspetta, Berchida, no, Itireddu aveva, Itireddu, non Berchida, Itireddu, e quindi si occupava di quello, mentre Claudio era con me all'impianto di Tiesi, conduttore d'impianto, capito? Poi, proprio per non viaggiare, sempre, insomma, cercando di aiutarlo, eccetera, aveva chiesto il trasferimento, non gli avevano dato, una, due, tre volte, alla fine il direttore ha ceduto, il responsabile del distretto, e l'ha mandato assieme a Francesco, appunto, in depurazione, sono ancora in coppia. Sì, sì, sì, me l'aveva detto e stava cercando di avvicinarsi, perché mi diceva, appunto, io non c'ero più a Tiesi, però eravamo molto in contatto, poi ci vedevamo il lunedì, mercoledì e venerdì qua a Sassari al laboratorio di analisi, perché loro venivano a portare i campioni per fare le analisi dell'acqua, quindi ci vedevamo e mi diceva le problematiche, parlavamo, insomma, io cercavo di dargli una mano. Ci sono riuscito in parte, ma poi è stato accontentato, diciamo, dai, perché era troppo la spesa. Lui viaggiava tutti i santi giorni, tutti i santi giorni, due volte al giorno, andare e tornare da Pattada a Tiesi, e veniva un po' in salita. Infatti molte volte faceva anche turni che non erano sui per recuperare proprio i soldi per la benzina, insomma, per il gasolio, capito? Ma ti ripeto, ha fatto un sacco di sacrifici quel ragazzo, ha fatto un sacco di sacrifici e merita adesso di essere lì in paese, capito? Quanti chilometri sono da Pattada a Tiesi? Una sessantina? Lui mi diceva, qua faccio dai 65 ai 70 chilometri andare e 70 a tornare, sono 140 km al giorno, fra un po' non c'ho più macchina perché me la sto mangiando. Infatti mi aveva chiesto di dargli una mano, io ho parlato col mio responsabile del distretto e un po' l'aveva avvicinato. Poi tre volte alla settimana lasciava la macchina a Tiesi e andava via col fiorino per recuperare un po' di gasolio. Però purtroppo poi hanno messo i satellitari nelle macchine, quindi sai, i movimenti non venivano più, non veniva bene a coprire, quindi è tornato con la macchina sua. Poi alla fine, quando io sono andato via, mi hanno detto appunto che l'avevano, me l'ha detto lui, perché siamo sentiti, mi ha detto che l'avevano finalmente trasferito a Pattada in coppia con Ciscui, che loro sono nati assieme, nel senso hanno iniziato assieme a lavorare assieme, poi li hanno divisi, capito? E adesso sono nuovamente insieme. No, te lo dico, Monserrat, perché io inizialmente, quando praticamente sono passato dalla potabilizzazione alla depurazione, mi hanno assegnato come primo impianto Tiesi, capito? Primo impianto Tiesi, proprio ero lì all'impianto di Tiesi. E loro erano assieme in depurazione, facevano tutta quella zona, limitrofe, insomma, Tiesi, ecco, Bonnannaro, Giave, Avevano, Giave, Itireddu, Bonorva, Pozzo Maggiore, tutti quella zona lì facevano come sollevamenti, però qualche impianto di depurazione piccolino avevano, tipo Uscio e Giave, che è dietro la stazione, capito? E quello di Bonnannaro, che è un po' grandetto. altri erano piccolini. Però poi me lo sono trovato a Tiesi, capito? E gli avevo chiesto come mai, e dice che l'avevano separati da, l'avevano separato da, da Francesco. Tutti. Non so cosa era successo, capito? E è rimasto un po' a Tiesi, perché io sono rimasto quasi due anni a Tiesi. Lui, quando sono andato via io, era ancora a Tiesi. Dopo un po' ci siamo usciti per telefono e mi ha detto che l'avevano trasferito a Pattara, gli avevano dato praticamente la zona che aveva prima assieme a Francesco, capito? Sì, non c'è problema, Monserrat, vai tranquillo, dai, ci aggiorniamo alle prossime, ti ripeto. A me. Se li vedi a tutte e due, salutami, salutami veramente, perché ci tengo moltissimo, ci tengo anche io a salutare, dai, un caro saluto a Claudio Marti, già lo sanno chi sono, per la linea di Claudio Sparviero, sanno chi sono, ok, un abbraccio sia uno che all'altro. Ciao Monserrat, grazie di questo, ci sentiamo alle prossime, Giulio, ciao. Ciao, alle prossime ci sentiamo. Giulio ci sei. Libertura di cosa? C'è Giulio. Giulio. Eh beh, c'era Giulio. Solo che è rimasto in quel X perché non sentiva Monserrat e si è chiuso. Giulio. Matro giù. Una canonata c'è radio lui. Una canonata. Sapeva che operatore scegliere. Una canonata. C'è coso. Ho acceso i baracchini. Battimento zero. Con questo niente, niente, niente, niente. C'è Roberto, non sento manco Roberto. Già non sento Antonello. È una radio sì. Allora le abbiamo messi. Beh, io grigi. Di lusso. Infatti è seria però. Per l'esigenza. Adesce anche bene, caspita, sentivo Monserrat, pulito, bello, segnale 8. Come... Bello, bello, bello. Meglio del 4.40 lo sentivo. Ma lo già dire, abbiamo in vendita. Un 4.40. Cazzo, sai che ho paura, lui se poi me ne pento, cazzo. Ma c'ho questa, guarda, non lo sto neanche più usando, poco, ogni tanto lo accendo per farlo scaldare, adesso è tutto spento. E c'ho anche il 4.30. Però c'ho questa e guarda, mi soddisfa davvero tanto. Solo mi la potenza LOV, 25 watt quasi modulati, 20 watt da riportante. Poi c'ho la potenza media che è 50, quella alta è 150, quindi a voi gli avvatti che va. Lugariello! A me è caduto Gilu. Oh Lu! Qua sotto c'è più mercato qua, c'è un altro di 4.40, un bel po' di tempo, già lo sai, ancora non è stato venduto. Ma mi pare che sia lì, ne ha un bel di cose, di agganci. Di aria fresca. Se c'erano gli agganci, era stato già venduto. E prima scenderà qua. Canto è a 2 mesi, 3 mesi. E prima ti dicevo, guarda. Canto venire, ho mancato mare. Perché magari cerca un radio diverso, hai capito? Non è che abbiamo molta scelta. Cerca un radio diverso, ma buono c'è Bongo 4.30, lo vendo subito. Insomma, come può fare gli operatori virtuali e... A meno difetti, 4.30, lui già lo sa. Chi lo conosce lo sa, lo sa, che lo devi usare, Roberto ha lasciato un sacco di tempo fermo, usava il 140, quando gli ho detto regala a me, te lo ricompro io. L'ha acceso tutto con i puntini, dice no così che non te lo posso dare. Allora l'aveva dato a Fabrizio, ma l'aveva fatto tutto revisionare e poi me l'ha dato, capito? Mi ha chiamato Riccardino, ti stava cercando due anni, ti chiedi un po' in giro, aspetta, ti voglio dire qualcosa, non so se qualcuno qua, tipo Marco, tipo Gianni, se c'era loro, è un po' di sperimentato in California, non so se qualcuno qua, anche quello che c'è Riccardo, ti mando un messaggio. E anche quello gliel'ha sistemato Fabrizio, quindi... perché anche quello era andato a farci fare in culo i condensatori. Guarda, non ha mai fatto nessun difetto il mio, mai, mai e poi mai, è perfettamente funzionante in tutto. Sì, assolutamente. Di che cosa serve questi cambi di condensatore? Anche se c'è la persona più onesta, no, meglio lasciar perdere. Che poi il kit costano più di un anno, tutto il kit completo costa 45 euro. Necessita qualcuno di che ce ne mette le mani. Ok, poi riprendi su Gianfranco, a te Mike. Vuole allineato, vuole strumenti, buoni. Ho capito già. L'ha saputo fare. Così che insomma appunto non c'è nessuno, non c'è più nessuno qua che le fa, bisogna spedirlo a gente fidata, capito? Chi so è. Se no andare sul tecnologico e buonanotte. No, ma infatti io sono andato sul tecnologico, questa è una radio che non crea nessun problema, capito? Non crea nessun problema, ho pigliato fuoco di tutto, taschere, quindi. Se no bastano, cioè hanno fatto la loro cosa, ma tu immaginati Franco di Sorso, ma non sembra entrare nuova quella radio, nuova, lì si sono crepati i condensatori e non l'ha più usata, ha chiamato Bianconi per farle un preventivo, 180 euro, solo di lavoro, più 20 andare e 20 a tornare, sono 220 euro, alla fine l'aveva venduta così, da riparare, capito? Andiamo, Ettore, non v'è? Ettore! A te, dottore Squalo! Ettore! Telefono. Cazzo ne andate in pari, buffo, vedo la giura. No, ti ho ascoltato per un bel po', però poi il telefono stava continuando a squillare. L'ho già chiuso, comunque lo sento. Dovuto rispondere. Ma ascolto. Sì, è un casotto. Finalmente. Beh, invece 140, 80, 430, non mi risulta che diano problemi del 440. Assolutamente no, io di 140 ne ho avuto tanti, sì 80 tanti, 430, 4, guarda il 430 Fabrizio me l'ha allineato l'ultima volta e cambiato il frequenzimetro, perché si erano bruciati gli ultimi due decimali e lampeggiava il primo, mi sembra, una cosa del genere. Io non sentivo l'ora. E quindi avevo ordinato il frequenzimetro e me l'aveva messo il frequenzimetro nuovo, ma mai altri problemi. Lo guarda 340 è una cosa allucinante, prova tu a lasciarlo un mese fermo, io me lo sono dovuto portare in campagna, ti dipende dalla cellula per poterlo accendere, ma lo accendevo tutti i santi giorni, perché altrimenti se lo lasciavo a casa spento era un casino, tornavo non c'avevo più radio. Sì, che è un difetto che ha, si può definire difetto. È un difetto proprio sicuramente. Se non è alimentato, se non è usato, i condensatori si scaricano, non ho capito perché. Ma se sono nuovi, perché si devono scaricare? Devono lavorare. Quindi lavorando prendono la carica e rimangono in carica. No, se tu non lo tratti vanno a zero. Si calano, si abbassano le tensioni, mi capito? Infatti mi pare la seconda volta gli aveva solo fatto le tensioni, alla terza volta gli aveva cambiato i condensatori. E poi ripeto, non c'è nessuno e deve avere un casotto a ripararli. Ma boh, bisogna andare purtroppo sui 140 che vanno benissimo, per l'amor di Dio. 680, 430. E lui 430 come 440 ha tre conversioni. Se tu lo spegni e lo lasci a 30 watt, lo accendi ed è a 30 watt. Il 140 la grande durazione è watt na 1, un watt da 6. Devi stare mezz'ora, devi caldire a radio e poi si stabilizza. E così è il 680, perché due conversioni, capito? Quello che non piace a me di quella radio è quello lì. Lo devi dare sempre acceso per schiacciare la portante e avere i watt che devi avere. Se tu l'accendi va un watt. Se no devi mettere già sollevare i watt da quando l'accendi, poi quando si scalda abbassarli man mano. Ma non è consigliato lui, non è consigliato. se tu leggi il manuale in italiano non è consigliato, ma lo dicono anche i tecnici, non è consigliato perché la radio è fredda, con due conversioni deve scaldare per stabilizzare le tensioni. Se tu le dai watt a freddo rischi di fare danno, capito? Io l'ho sempre detto, accendetelo un po' prima, se ce l'avete lasciatelo in stand by almeno un quarto d'ora, 20 minuti e poi parlate, perché non è consigliato una cosa del genere. Mentre le tre conversioni 4.30 e 4.40 tu l'accendi e puoi andare tranquillo, perché i watt che sono a freddo sono a caldo, non c'è niente, non si muove. Purtroppo però è una radio passata. Già Giulio è andato. Giulio! È rimasto in quel Rix perché era nel 10, c'era Nicola, non lo sentivo. Anch'io sono. Ti sono leggermente alterato, con la gente io voglio sentire tutti. Sono venuto qua, c'era Monserrato che stava chiamando, la pattata gli ho risposto, ci abbiamo fatto due chiacchiere, però Giulio non lo sentiva, quindi è rimasto in ascolto. Non so se è sceso giù o se è nel 10 in ascolto, si sta parlando al 10. Ho sentito Roberto nel 10. Come è fissa o la regolabile con l'alimentatore? Siamo tolte, ma non se ne accorge, arriva sopra l'alimentazione, iniziano a notare un po' la... Io faccio tutto sotto controllo, quasi quello che... Sotto fondo, però come si fa un battimento? Sì, perfettamente, si sente. Ha dato un'apertura e un po' di calma verso le 19. Due colpi. Sì, sta di nuovo più avvicinando la massa di tenebraria. Che ore sono? Le 7 e un quarto. Se cambia qualcosa. C'era tregua alle 19, tra le 19 e le 20. Ci aggiorniamo mercoledì sera, porto il cane così mi libero e poi siamo, ce ne saliamo su e facciamo quello che dobbiamo fare. Perché venerdì ha messo di nuovo pioggia. Non so, poi no, venerdì mattina non ci sono io, c'ho un... devo andare in barca a fare un atto. Spero c'era l'alimentazione. Ho manca in te, c'è Piazza Italia, quindi c'ho appuntamento alle 10:30. Ne devo comprare due anziché... Io arrivo alle 11, perciò... Ma è sovrappensionato per le cose, per stazione dell'apparecchio, l'alimentatore? Sì, anche se restiamo verso le 9. Nove e mezza. A Londra siamo finiti, me lo già ben si vigia, no, me ne ho venuta la testa a smontare il rotore. Poi lasciate tutto abbassato così, già mi arrangio io, non è un problema. Ok, sono migliori. Sovradimensionato, non ho bisogno di rendere, questo è un 60 ampere, ma dove è quasi 120, per come è costruito. Però ci sono dei finali che stanno al 30%, per cui non scalda niente, potere 24 ore su 24 acceso, mi è capitato. Tutta la notte, tutto il giorno, perché andai in macchina, di piega come si dice, è costruito super professionale, un casino, se vedi finti questi finali, eppure lo chiudono al minimo, e per quello che si vendono, quelle parti lì, commerciale, quando vai in moto, è meglio perché ce l'ho davanti, la lascio lì davanti proprio alla banca dove sono i parcheggi delle moto, non c'è problema. Vabbè, vediamo com'è. Vabbè, ci sentiamo dopo, mi assento, dove c'è anche Marco, mi sa, sul 10 che poco fa ho girato un attimino. No, io vabbè c'ho l'altra radio accesa, quindi già le sento. Dai, ci aggiorniamo dopo, ok, inizio a prepararmi, dai, ciao. Ciao. Almeno la parola, fare cose. Attenzione, signor Vecchio! Buonasera. Buonasera. Passa Italia Verde, qua già lo sai. Cuore, Marino, ciao Maria, bene. Come andiamo? Io bene, tu? Tutto ok. Sono stato 2 minuti più e mezzo, mi ha chiamato perché non mi ascolto. Ma quanti abbiamo visto l'amico tuo? Sì, Antonello, stavo parlando con lui al telefono. C'ero più di un quarto d'ora al telefono, adesso ho chiuso. No, confino. Ah, oh, lui si è malato a capo. Purtroppo. Nicola, Lupo Grigio è rientrato, dice forse era in macchina, ma si stava scherzando. Non è che mi interessa, è una persona che non mi interessa più di tanto, era piccolo. Ma chi ce lo sei sentito? Poc'anzi c'era Claudio, ma stavo parlando con lui in Patala, io in Patala non lo sentivo e lui non sentivo me, e allora ci ho rinunciato, ma allora poi ho telefonato all'Antonello, quell'amico che io di solito frequento la mattina quando è possibile uscire eccetera, allora andiamo al bar, prendiamo il caffè insieme eccetera, allora con lui c'è uno di Antonio dove tu gli alcuno io quello di cosa lo sentivo Santiago 1 ma non solo poi deve stare sul 10 capito? Era sul 10 aspetta risponda con il motivino ok là Giuliano passi sul PMR cosa dici? Faccio la radio non te l'hai grazie la radio PMR gente c'è c'è Gio Maria c'è Tore Luca ah io ho capito vabbè ho già le 8.20 no vai Maria non c'è problema ci sentiamo ok ciao ciao Maria alle prossime ok ciao ciao